La venerabile Francesca Ranizze nacque a Porto Maurizio il 23 giugno 1796. La sua era una famiglia modesta, infatti il papà era un calzolaio, la mamma faceva la sarta. Pensate, proprio in quei giorni della sua nascita si festeggiava la beatificazione, allora era beato, di un altro grande santo suo concittadino, San Leonardo di Porto Maurizio, il santo della Via Crucis, noi lo conosciamo così. Questa nostra bambina cresce e a 14 anni comincia anche lei ad imparare, ad apprendere quello che è la professione in famiglia, quello che fa la mamma, cioè comincia a imparare a fare la sarta per dare una mano appunto alla famiglia. Ma la sua, i genitori in modo particolare, era una famiglia con profonde radici cristiane, nella quale si viveva veramente la parola del Signore ogni giorno. E allora proprio il cuore di questa ragazza, impregnato soprattutto da questo esempio meraviglioso, aprì il suo cuore alla carità verso i fratelli, quelli in particolare più bisognosi. Sentì in quegli anni però anche la necessità di far parte di una confraternita. Ebbene, nella cittadina ce n'erano diverse ed essi ne iscrisse a cinque di loro. Come vedremo, ognuna di queste confraternite darà il suo contributo importante per costruire soprattutto nel futuro, come vedremo, una donna piena di pietà, di amore, che avrebbe donato la sua vita per gli altri. A 23 anni, proprio nella pagella di iscrizione della confraternita al Sacro Cuore, lei era devotissima al Sacro Cuore di Gesù, lei scrisse così, volle scrivere queste frasi: «Io, Francesca Ranixe, sposa di Gesù, per accrescere sempre più la gloria del Signore morto in croce per noi, e dell'infiammato suo cuore che arde d'amore verso di noi nel Santissimo Sacramento all'altare, per riparare le offese che a lui si fanno in questo sacramento di amore, mi unisco con gli altri aggregati a questa pia unione. Gesù mio, racchiudete nel vostro sacro cuore tutti gli aggregati affinché ardano del vostro divino amore». In paese, come era naturale, era molto sentita anche la devozione per la passione di Gesù, proprio secondo gli insegnamenti di San Leonardo. E lei rinnovò per tutta la vita l'adesione a questa confraternita del Monte Calvario, ma, come vedremo, più che rinnovarla sulla carta, la visse proprio ogni giorno, con l'esempio e anche con la sofferenza. Un'altra invece confraternita che ebbe, diciamo, una presenza fondamentale nella sua vita fu quella di Santa Caterina. Infatti qui, proprio in questa confraternita, iniziò l'apostolato meraviglioso che avrebbe poi caratterizzato la sua vita. Qual era questo apostolato? Istruire le fanciulle povere, soprattutto per prevenire i pericoli causati dalla povertà. Il pericolo qual era? Che si veniva molto facilmente poi sulla strada, ci si perdeva. Lei nel frattempo cresce così nella devozione a Gesù, con un grande amore alla preghiera e alla Vergine Maria. Allora a Porto Maurizio vi era solo il convento delle Clarisse che però era stato chiuso ai primi dell'Ottocento con le leggi napoleoniche. E la sua prima biografa, che è Suor Maria Maddalena Arnaldi, una suora che ovviamente con lei creerà, diciamo, questa nuova congregazione, così descrive l'inizio della vocazione della nostra Francesca Ranixe, dice Suor Maria Maddalena Arnaldi: «Fattasi adulta, la giovane Ranixe provava una grande compassione per le figlie del popolo, figlie abbandonate a se stesse per le vie delle città, e avrebbe voluto tutte raccoglierle intorno a sé per educarle a sentimenti cristiani e liberarle per tal mezzo dall'occasione del peccato e dell'acquistare abitudini viziose che conducono la gioventù alla perdizione. A tal scopo, essa andava maturando in cuor suo un'istituzione che avesse l'alto oggetto di educare cristianamente le figlie di ogni condizione, ma specialmente quelle più povere. Ebbene, all'età di 27 anni, guidata saggiamente dal suo direttore spirituale Don Vincenzo Marini, lei dava inizio, insieme ad altre quattro amiche, alle prime scuole per le ragazze della cittadina. Era, cari amici, il 1 gennaio 1824, quando nei locali di un altro soppresso convento dei padri Barnabiti nasceva un istituto, questo istituto per accogliere donne e ragazze desiderose anche di condurre una più intensa vita di preghiera, in modo da poter accogliere le ragazze che invece erano sulla via della perdizione ed educarle ad uno stile di vita più cristiano e dedicarsi così alla formazione della gioventù femminile. Ecco, tornando indietro di alcuni anni allora, le leggi napoleoniche all'inizio dell'Ottocento, quelle leggi che avevano soppresso in Italia chiuso buona parte dei monasteri e dei conventi, non avevano risparmiato neanche Porto Maurizio. E quindi dicevamo anche l'antico monastero delle Clarisse era vuoto. E le cinque monache che allora lo avevano abitato e che erano state purtroppo costrette a lasciare, ora erano anziane e risiedevano in abitazioni private, anche se guardavano sempre naturalmente con nostalgia al loro monastero. E qui, quando in quel periodo poi si profilò la possibilità di riaprirlo, le suore ormai anziane invitarono Francesca, per renderlo vivo, a trasferire la sua opera nel monastero. Lei accettò. E così il 15 ottobre del 1825, praticamente l'anno dopo questo inizio, con queste quattro amiche, no? che formavano questa nuova associazione, non era ancora una congregazione, il 15 ottobre del 1825 il monastero riaprì con grande gioia delle anziane monache che dopo tanti anni potevano ritornare nella loro casa di sempre. E proprio in questo meraviglioso cammino spirituale anche la nostra futura venerabile con le sue amiche sentivano nel cuore ormai il desiderio di essere totalmente del Signore, di servirlo con tutta la loro vita. E così dopo un cammino, il 23 gennaio del 1828, quindi tre anni dopo, fecero la loro professione religiosa come Clarisse. Anzi, diciamo che Francesca, anche in onore del suo grande concittadino di San Leonardo, prese il nome di Suor Maria Leonarda. Era felice perché oltre ad aver realizzato la sua vocazione, si rendeva conto dell'importanza di accogliere queste ragazze, no, sulla strada, e quindi aveva reso concreto questo suo progetto educativo, in un tempo, dobbiamo anche dire, in cui le scuole femminili erano pochissime, rare, e solo per persone privilegiate, aveva iniziato anche questo nuovo cammino, diciamo, di consacrazione. La vita scorreva serena, ma due lutti la turbarono fortemente. Infatti venne a mancare l'anziana badessa del monastero, e questo, come vedremo, causerà grandi problemi, e nel frattempo, purtroppo, morì anche la sua prima compagna dell'opera, Suor Anna Luigia, che era giovanissima, aveva 25 anni. Era il 1830, lei aveva 34 anni, e questo vuoto lasciato dalla badessa e da questa sua amica suora fu colmato in parte dall'arrivo della sorella di Suor Maria Leonarda, che si chiamò poi Suor Crocifissa. La prova però non era finita, infatti delle quattro insegnanti rimaste, le ragazze erano già tante, quindi che bisognava poi seguire, due di loro iniziarono ad avere seri problemi di salute. Allora non era come oggi, le medicine scarseggiavano e quindi diciamo la tisi o la polmonite o la tubercolosi era all'ordine del giorno. Sta di fatto, cari amici, che alla fine si trova lei da sola a fare l'insegnante. Potete immaginare qual era la problematica. Cosa successe? Che le altre monache anziane, le Clarisse, erano ovviamente invitate ad aiutarla. Non poteva gestire lei tutta da sola, quindi anche la scuola. E qui cominciarono dei malumori. Malumori perché ovviamente le Clarisse erano di tipo contemplativo, quindi ma in quel momento la necessità era anche di aiutarla. In fondo il monastero era stato aperto grazie a lei, quindi era una situazione un po' particolare. Furono, dobbiamo dire, anni di grande dispiacere per lei. Chiamava sinceramente queste suore anziane, nutriva grande tenerezza verso di loro e mai e poi mai avrebbe immaginato questa situazione. Insomma, questa controversia si trascinò alcuni anni, coinvolgendo addirittura le autorità ecclesiastiche. Lei però non si scoraggiava, pregava incessantemente, notte e giorno, per questa situazione che le dava grande sofferenza, ma era fiduciosa e diceva così: Dio è un padre amoroso che sa trarre da ogni avvenimento, anche il più triste, un bene per noi. E questo com'è vero, cari amici. Nel frattempo, però, su iniziativa delle suore anziane, delle suore Clarisse, per dirimere la situazione il vescovo decise di separare le due comunità, proponendo a suor Maria Leonarda e alle altre giovani suore che nel frattempo l'avevano seguita di andare a risiedere nell'ex convento della Santissima Annunziata. Era un altro convento sempre chiuso a Porto Maurizio. Alla fine però si pronunciò anche la Santa Sede, che decise invece di lasciare suor Maria Leonarda dov'era, anzi proponendo proprio lei come responsabile del convento. La situazione era francamente non facile, e la madre, a parte qualche anno di intervallo, resse questo monastero come badessa, pensate, dal 1838 al 52, cercando in tutti i modi di riportare pace, serenità all'interno della comunità, che adesso contava 20 monache. E lei, cari amici, era l'anima di tutto, ma le stavano particolarmente a cuore la carità tra le consorelle, anche in quella situazione piuttosto ostica, la fedele osservanza della regola. E un altro punto su cui insisteva molto era far entrare nella scuola quante più ragazze possibili, soprattutto, dicevamo, le più povere, per dare loro una dignità, un futuro, no? Era importantissimo questa cosa, per non farle perdere. E per questo, nonostante avesse una salute purtroppo precaria, non si esimeva dalle penitenze. Quante ne ha fatte, quante ne ha offerte, dalla preghiera ai piedi del Santissimo Sacramento a Gesù, soprattutto quella notturna, perché di giorno era continuamente impegnata nelle tante cose. Amava Gesù in modo profondo, e in particolare, dicevamo, nell'Eucaristia. E lei diceva così, diceva: trovo una grande gioia nel trattenermi con il buon Gesù, cuore a cuore, spirito con spirito, le ore mi sembrano minuti e il tempo mi passa veloce, io non ho bisogno di nulla perché tutto mi dà Gesù. Era un amore veramente grande. Intanto, pensate, proprio il 7 ottobre, quindi il giorno della Madonna del Rosario del 1848, fu emanata una legge governativa che stabiliva anche l'insegnamento obbligatorio per ragazzi e ragazze, quello che poi saranno le scuole elementari. E il Consiglio Comunale della cittadina pensò naturalmente subito a Madre Maria Leonarda, che era stimatissima, preparatissima, una santa persona, e lei disse agli amministratori, fece il nome del convento della Santissima Annunziata, perché lo riteneva il più idoneo, ma anche per togliere, quella ostilità che si viveva in convento da parte delle altre suore, no? Desiderava la pace di tutti, la serenità. E poi comunque riteneva questo convento idoneo per fare la scuola, ma si trattava ora, separandosi, di far nascere anche una nuova congregazione, e per far questo bisognava avere l'autorizzazione del vescovo, e quindi lei, trepidante, perché insomma non pensava nella vita di dover fondare un nuovo istituto, una nuova congregazione, non se ne sentiva di fondo neanche all'altezza. Lei, ecco, seguiva fedelmente quella che era la parola del Vangelo, quindi la sua missionarietà in mezzo alle ragazze per aiutarle a toglierle dalla strada. E scrisse quindi al vescovo per avere questa autorizzazione, e ci volle un anno prima di avere questa risposta, che fu positiva. Così, il giorno bellissimo, il 6 maggio del 1852, dopo 27 anni, con le lacrime agli occhi, Madre Maria Leonarda, con le suore che la seguirono, furono 8, non la seguirono tutte, 8 la seguirono, si trasferì all'Annunziata. che era stata 27 anni in quell'altro, nell'altro convento, quindi comunque lasciava un pezzo di cuore lì, nonostante tutto quello che, diciamo, quella situazione che si era creata. E questo convento dell'Annunziata, come tanti altri, era stato soppresso anch'esso nel 1810, riapriva, pensate, dopo 42 anni. Lei intanto si preoccupò naturalmente del riordino dei locali, perché doveva naturalmente adibirli a scuola, a collegio, a ripristinare la chiesa. Ma il problema quale fu? Che i costi erano enormi, cioè il convento era grande, e lei disse: ci penserà la Divina Provvidenza, e diceva: quel Dio che provvede al povero uccellino, quel Dio che conta i capelli del nostro capo, volete che ci abbandoni nei nostri bisogni? E fu così. E proprio in questa nuova congregazione lei univa in modo mirabile la contemplazione tipica delle Clarisse a quello dell'azione. Quindi affuso, no, questi due modus operandi in modo meraviglioso, e il Signore benediceva in modo enorme questo suo operare. E le bambine, le ragazze iscritte, e pensate, erano 300 allora, di cui molte erano soprattutto quelle povere, e possiamo immaginare l'impegno, diciamo, delle suore. Il comune dava un sussidio mensile, ma nella maggior parte delle volte non era assolutamente sufficiente. Ebbene, qui si vede anche la santità della nostra venerabile. Proprio in queste situazioni critiche molte volte accaddero episodi prodigiosi. In diverse occasioni mancava anche il necessario, cioè il pane, per la refezione delle bambine, e puntualmente veniva premiata questa sua fiducia nella provvidenza, perché arrivavano dei viveri in modo misterioso e assolutamente inaspettato. E questo ci è stato testimoniato da più parti. Era impossibile, diciamo, ricevere in quel modo, era impossibile. E lei, dicevamo, non solo era l'anima di tutto, questa meravigliosa apostola, ma doveva anche attendere alla formazione spirituale e formativa delle sue suore. Per questo iniziò a lavorare anche alla stesura delle nuove regole, che fossero però il più fedeli possibile a quelle di Santa Chiara, adattate naturalmente all'azione e intrapresa, quindi contemplazione e azione. Lo spirito però che lei, cari amici, voleva infondere nelle consorelle, in queste sue figlie, era quello della spiritualità francescana delle Clarisse, con vita claustrale, dicevamo, ma aperta alla formazione delle giovani, soprattutto delle più povere. E sempre suor Arnaldi, quella che è stata la sua prima biografa, così testimoniò di quel periodo: la madre era l'anima della comunità, a tutto e tutti pensava, a tutto provvedeva, e con la sua ordinaria amabilità e saggia amministrazione si attirava l'amore, la confidenza, il rispetto, anzi la venerazione delle sue figlie e di chiunque avesse avuto il bene di conoscerla. Ecco, nel frattempo, tra il 1854 e il 55, Porto Maurizio fu colpito, purtroppo, come altre località della costa, da un'epidemia di colera. E le suore non solo misero a disposizione i locali per i malati, ma esse stesse andarono in prima linea, pensate, per soccorrere le tante persone, la popolazione di quella cittadina che stava vivendo momenti drammatici. Questa una carità e un amore che andava al di là, diciamo, dell'umano, perché sapevano bene che potevano anche loro essere contagiati e quindi perdere la vita, ma nonostante questo avanti, sempre avanti nel nome di Gesù e di Maria. Nel frattempo, passata questa cosa drammatica, il regio governo decise di aprire anche asili per i più piccoli, e a Porto Maurizio si pensò sempre a madre Maria Leonarda e alle sue suore. Quando qui tutto però sembrava andare per il meglio, ecco la croce. Nel mese di novembre del 1858 le suore votarono l'elezione e la riconferma della madre superiora, e votarono naturalmente madre Maria Leonarda, che aveva però 62 anni. Fu rieletta, ma questa volta con 7 voti a favore e 5 contrari, quindi era evidente una fronda interna, E questo affronto interno era formato soprattutto da alcune tra le più giovani. Infatti, cosa era successo? Che la fedeltà all'osservanza della regola, che per lei era fondamentale, ma anche e soprattutto la carità tra le consorelle, da alcune non era totalmente condivisa. Quindi c'erano, diciamo, delle durezze, delle rigidità che non contemplavano una condivisione con quello che la madre pensava. E lei si trovò in difficoltà ad accettare questa elezione e rinunciò all'elezione perché desiderava che tutti fossero d'accordo. Fu rifatto quindi un nuovo capitolo e fu eletta la sorella di madre Maria Leonarda, suor Crocifissa. Ma le suore dissidente non si fermarono lì, volevano cacciarla. Scrissero al vescovo di Albenga, il loro intento era quello di farle estromettere dal convento. Alla fine, non riuscendo a ottenere quello che volevano, alcune di loro se ne andarono. Ma il problema è che quattro di esse erano insegnanti. Insomma, fu un colpo micidiale, perché a metà gennaio, pensate, cioè a metà anno, si trovò scoperta la scuola e a questo punto, dovendo gestire le ragazze, lei non riuscì a far partire l'asilo anche per i bambini, che era quello che voleva fare. Come se ciò non bastasse, furono lanciate nei suoi confronti anche calunnie terribili, come ad esempio la sua assoluta mancanza di carità verso le ammalate, la sua crudezza, no? Oppure la sua cattiva amministrazione, cose assolutamente invere, accuse che si rivelarono poi infondate, ma il problema qual è? Che il vescovo allora, credendo a queste falsità, l'allontanò da tutte le sue funzioni, per poi, dicevamo nel tempo, ricredersi, e scusandosi, perché andò da lei per scusarsi, la reintegrò in tutti i suoi uffici. Però questa cosa la colpì al cuore, non perché l'aveva tolta dai suoi uffici, la colpì al cuore per la mancanza di fiducia, per il dolore anche di sentirsi non compresa, no? Ma tutto offrì a Gesù. Offrì a Gesù, ma iniziò anche un periodo terribile per lei di notte oscura, anche dello spirito possiamo dire, e iniziò anche ad ammalarsi. Lei purtroppo era già di salute cagionevole. Dobbiamo però dire che il suo cuore, questo lo testimonia, restò sempre sereno, convinta, come poi sarà, che il Signore avrebbe rimesso tutto a posto. Proprio in quel periodo così provato, lei scrisse varie lettere a un santo religioso scolopio, era padre Atanasio Canata, che divenne poi un vero e proprio consigliere spirituale. Lei descrive così quel momento, scrivendo a padre Atanasio, dice: chi conosce la croce la brama, cioè la desidera, chi non la conosce la fugge e la allontana, ma chi la ama apprende che gli è infinitamente lontana, cioè chi ama la croce l'accetta come se non ci fosse, benché lei dice l'abbia in mezzo all'anima. Quel cuore, dice la nostra venerabile, che ama Gesù e desidera di essere crocifisso, se viene crocifisso se ne rallegra. È una filosofia poco intesa, dice, si capisce in effetti, cioè non è molto accolta, e prosegue. La santità e perfezione è tutta compresa in questo carattere d'amore. E lei dice di più, dice, un'oncia di croce, cioè un po' di croce, vale più di 1.000.000 di libbre di orazione. Una giornata crocifissa vale più di tutti gli altri esercizi spirituali. È meglio stare in croce un solo momento che gustare tutte le dolcezze del paradiso. Questo io lo giro soprattutto a chi è nella sofferenza nell'anima ma anche nel corpo. Vedete che grandezza e che preziosità ha la sofferenza quando viene offerta al Signore. Ma arrivò anche una nuova spina nel fianco. Infatti, con il passare degli anni cambiarono, come sappiamo, anche le situazioni politiche. In quel periodo poi era forte proprio il clima anticlericale, anche a livello governativo, che sfociò anche qui in una successiva soppressione di alcune congregazioni, quindi chiusura relativa dei conventi, e quella della Venerabile si salvò perché gestiva anche la scuola. E anche l'amministrazione di Porto Maurizio, che sempre aveva stimato la sua opera, naturalmente, essendo cambiate le persone, cambiò parere. E qui, subito dopo la sospirata Unità d'Italia, la soppressione dei monasteri e dei conventi si ripete in modo, possiamo dire, speculare rispetto a quella francese dei primi dell'Ottocento, quindi quella di Napoleone, con le stesse motivazioni ideologiche. Per esempio, il 17 febbraio del 1861, Eugenio di Savoia, quindi viceré d'Italia, dichiarava decaduto ogni concordato con la Chiesa, ma i beni immobili e mobili dei monasteri e dei conventi furono, ci viene detto che furono minuziosamente inventariati, cioè fatto l'inventario, e incamerati dallo Stato. E naturalmente, cari amici, visto che insomma allora i beni venivano incamerati dallo Stato, anche il municipio di Porto Maurizio volle incamerare i suoi beni e mise gli occhi proprio sulla struttura dell'Annunziata, perché voleva destinarlo a caserma militare. E chiese ovviamente alle suore di tornare nel convento di Santa Chiara, quindi dove erano prima. Ma c'è un problema, cioè l'amministrazione comunale non voleva tener conto che allora, pensate, ben 130 alunne, bambine, ragazzine, beneficiavano dell'istruzione gratuita, non potevano, erano di famiglie povere, quindi i genitori ovviamente non potevano sostenere alcun costo, quindi era la madre con le suore a mantenerle, a gestire tutto, insomma, ad accollarsi le spese. E qui, oltre a questo problema, come se non bastasse, in quel periodo morì anche la sorella della nostra venerabile Suor Maria Crocifissa. Tornando al, diciamo, l'incameramento, diciamo, del convento, per 2 anni ci fu comunque una sospensione sul ritorno a Santa Chiara e nel contempo però, dicevamo, la madre era già ammalata, quindi si ammalò ancora di più perché comunque non si risparmiava, non tanto per il problema del convento, quanto perché non si risparmiava un attimo, era continuamente in opera per cercare di aiutare le ragazzine soprattutto, perché potessero avere una cultura e un futuro, a gestire il convento, a gestire le figlie, le suore che erano entrate, a cercare di donare tanta carità e tanto amore, soprattutto anche a tanti poveri che effettivamente erano a Porto Maurizio. Quindi si spendeva totalmente, a tal punto che la sua salute si aggravò, e si aggravò a tal punto da avere spesso addirittura sbocchi di sangue, voi pensate, e si temette anche il peggio. In quel periodo però scrisse ancora a padre Atanasio, sono delle lettere molto belle perché ci danno la testimonianza di chi era questa donna. Lei scrisse così, sì, disse, la lotta che soffre la religione è fortissima, non si può negare, ma pensando che a capo della Chiesa vi è il nostro potente Dio, egli ci difenderà, ci consolerà, ci proteggerà e proteggerà la Chiesa sua sposa. C'è una fiducia veramente totale nella provvidenza. Essa scrive, ha sempre trionfato dei suoi nemici, perciò coraggio, mio buon padre, non conviene smarrirsi, perché Dio proteggerà sempre i suoi figli, e se Dio è con noi, chi potrà vincerla contro di noi? Noi vi ci aspettiamo con rassegnazione quel che Dio ci manderà, anche se vi sono cose disgustosissime, se Dio lo permette, noi baciamo la mano che ci corregge. Io intanto confido in Dio, la crisi è forte, ma Dio è potente, e non sarà mai se non ciò che egli permetterà, e poi del male egli saprà trarre sempre il bene. E così arriviamo all'11 agosto del 1864, quando arriva la decisione del governo che intimava le suore di lasciare il convento e quindi di ritornare a Santa Chiara. La madre aveva 68 anni, sapeva benissimo che ritornando nel convento di Santa Chiara la situazione si sarebbe di nuovo complicata, perché ormai anche le due congregazioni avevano finalità, carismi diversi, no? E la presenza della scuola avrebbe creato ancora una volta delle difficoltà di convivenza, ma questo non interessava assolutamente a chi doveva poi decidere dove inviarle, no? Basta che si liberava la Santissima Annunziata per farci la caserma, che andava bene così, come in effetti poi fecero. Si trattava allora non di tornare nel monastero di Santa Chiara, ma con buon senso di trovare una nuova sede, no? Per poter continuare questa bellissima opera, questa congregazione, che oltretutto stava crescendo anche come vocazioni. E la si trovò, pensate, a pochi chilometri, a Diano Marina, dove qui le autorità e accolsero con affetto addirittura le suore, ringraziandole per la loro scelta. Era la domenica del 14 agosto 1864, è una domenica importante. E suor Arnaldi, la sua prima biografa, descrive così quel giorno. Indescrivibile, dice, l'entusiasmo con cui vennero accolte le monache dalla popolazione. Tutti si rallegravano. Vi era chi ringraziava San Nicolò, che era il patrono del paese, d'aver mandato una famiglia religiosa a stabilirsi nel proprio paese. Quando arrivavano i carri che trasportavano la roba da Porto Maurizio, quindi dal convento dell'Annunziata, il sindaco, i proprietari staccavano dal lavoro gli operai perché andassero a scaricare. Ad essi poi si univano altre persone del popolo che erano presenti ed ognuno andava a gara chi potesse più aiutare le monache. Questa è una grande felicità, no? Di avere, se comprendevano l'importanza di avere persone preparate che potessero preparare i loro figli, no? Questa era la loro gioia, no? E subito vennero loro affidate, senza pensarci due volte, le scuole, frequentate anche dalle ragazze del paese, ma non solo. I paesi vicini, saputo questo, mandarono anche i loro figli da loro, perché potessero imparare, potessero crescere, anche nella santità. E qui le suore, la madre con le sue figlie, si prese cura non soltanto delle scuole, ma questo cuore grande, pieno di amore e di carità verso i fratelli, li portò anche a donarsi ai malati dell'ospedale di Santa Croce, che era appunto all'interno del paese. E lei, sempre con grande coraggio, anche se molto ammalata, con immensa fiducia nella provvidenza, spronava le sue figlie, spronava ad avere sempre lo sguardo rivolto a Gesù, a non tener conto delle difficoltà, diceva così: siate coraggiose, siate generose, pensando sempre che tutto potete in Gesù che dimora in noi. E la benedizione del Signore, cari amici, non mancava. Infatti altri giovani si unirono alla comunità vestendo l'abito religioso. Nel frattempo ci fu anche il nuovo capitolo, quindi dovevano eleggere, dopo 8 anni, la madre come superiora, no? Ogni 8 anni c'era la nuova elezione, e la madre però era molto, madre Maria Leonarda era molto ammalata, e fu eletta un'altra superiora, naturalmente, e lei accettò con grande umiltà questa decisione, consapevole appunto del fatto che ormai le sue forze erano notevolmente diminuite. Gli anni erano tanti, aveva sacrificato tutta se stessa, donando la sua vita per aiutare i fratelli, per aiutare tantissime centinaia e centinaia, se non migliaia di ragazze, che non sarebbero più finite sulla strada o in pericolo, ma che si potevano costruire finalmente un futuro. Ma lei è proprio per questo sacrificio, dicevamo, era ammalata e iniziò ad avere in quel periodo anche forti dolori ai nervi, alle ossa, e questo la costrinse praticamente a stare su una carrozzina. Fu costruita per lei proprio una carrozzina artigianale che ancora oggi è visibile nella casa madre della congregazione, perché non poteva più camminare praticamente, quindi aveva praticamente terminato questa possibilità, non l'aveva più. Ma non si lamentò mai, cari amici. Lei sempre in cuor suo ringraziava il Signore che, ecco qua, la rendeva partecipe di queste sue sofferenze, così da far scendere proprio per questa donazione che lei donava al Sacro Cuore di Gesù, fa scendere tante grazie sulla sua congregazione, ma anche per tutte le ragazze che erano presenti, che lei aiutava, per tante anime, quanto lei era vicina al Signore. Unita a Gesù, unita alla Vergine Maria, e lo Spirito Santo le illuminava anche sulla situazione di tante persone, parlo a livello di anima naturalmente. E lei diceva così, diceva: Gesù dispone di me, io sono la stoffa dove egli ricama a suo piacere. Ed era proprio così, e la gente, proprio per la sua affettuosità, la sua disponibilità, la sua dolcezza, l'amava molto e pregava per lei, pregava per la sua salute, perché non voleva assolutamente perderla. Per loro sarebbe stata una tragedia perdere Madre Maria Leonarda, ma gli ultimi giorni si stavano avvicinando. Dalla sua stanza, dicevamo, non poteva più scendere, la sua vita era ormai però, possiamo dire, un'incessante preghiera. E di fronte al letto aveva un grande crocifisso, era il libro, diceva, su cui leggere tutto il dolore e tutto l'amore. E a questo riguardo lei in molte occasioni ha detto: la croce è la prima e l'ultima lettera dell'alfabeto cristiano. E quando qualcuno entrava nella stanza, quel qualcuno erano soprattutto le sue figlie, voleva che prima si salutasse Gesù e si facesse una preghiera. E proprio le sue figlie ci hanno tramandato una bellissima preghiera che lei faceva spesso proprio sulla morte, e pregava così: Signore, non temo la morte, perché anzi è la mia liberatrice. Temo solo di non poter vivere bene come mio dovere, come voi desiderate da me. E lei, sappiamo che era sempre vissuta offrendo la sua vita a Gesù, ma anche nella grande povertà francescana, e proprio nell'umiltà francescana si preparava a morire, povera. E la sua povertà si vedeva, ed era chiara, anche dal vestito che lei portava pieno di toppe. In questo ci ricorda molto il saio di San Francesco. Sin da giovane, dicevamo, aveva sempre avuto anche una particolare devozione al Sacro Cuore di Gesù, ed ora proprio nel suo letto di malattia immergeva in quel cuore tutta la sua sofferenza e tutto il suo amore. Abbiamo visto, cari amici, che anche la sua giornata, quando poteva, prima terminava sempre davanti a Gesù Eucaristia, dove passava molte ore, soprattutto di notte, perché di giorno era sempre presissima da tutte le cose che doveva fare, e lei di notte davanti al tabernacolo pregava e spesso ripeteva alle sue figlie: non cerchiamo consolazioni neanche dalle nostre consorelle, pensate, ma solo ai piedi del tabernacolo sfoghiamo completamente i nostri cuori. E ora, poiché non poteva più scendere in chiesa, si univa a Gesù con l'intenzione del cuore. Ma io volevo ricordare anche la sua unione alla Vergine Maria, la sua tenera devozione alla Madonna, sua maestra, madre per tutta la vita. E lei, questo non l'ho detto prima, lo dico adesso, non aveva mai dimenticato, per esempio, un'esperienza unica, un'esperienza mistica grandissima, di una visione che lei aveva avuto proprio nel tempo burrascoso del passaggio dal monastero di Santa Chiara a quello dell'Annunziata. In quel periodo le apparve Santa Chiara, questo ce lo dice proprio lei, le apparve Santa Chiara in atto di consegnare un bocciolo di rosa alla Madonna, e come quel bocciolo di rosa, che indicava la sua congregazione, si fosse moltiplicato in una corona di rose, proprio segno dello sviluppo della nuova fondazione, come in effetti poi è stato, diciamo, nel tempo. Ma siamo, dicevamo, anche agli ultimi giorni. E lei, è curioso, sin da giovane, pensate, diceva, e questo l'aveva detto spesso anche alle sue suore soprattutto, che nel momento dell'agonia avrebbe voluto, avrebbe gradito qualcosa che non le era mai piaciuto, proprio come offerta ultima a Gesù, che a lei non piaceva per niente il brodo caldo. Quando quel giorno lo chiese ad una sua figlia, una consorella, questa scoppiò in pianto perché aveva chiaramente capito che era la fine. Fu accolta la richiesta e naturalmente chiamarono anche il sacerdote per l'amministrazione dei Santi Sacramenti. Era il 23 maggio 1875, aveva 79 anni la nostra venerabile, e tra le sue ultime parole disse di pregare per lei e aggiunse alle sue figlie, che erano raccolte con una corona di rose intorno a lei: vedete, carissime, quanti aiuti a ben morire fornisce il Signore nella religione. Qui si muore senza disturbo di parenti né di affari temporali. Il sacerdote ci assiste senza timore di spaventarci, e tante anime care, nostre sorelle, ci accompagnano sino alle soglie dell'eternità con le preghiere. Poi aggiunse: io muoio tranquilla. La morte per una religiosa non è che un trasloco. Il gran re sta per introdurre la stanca pellegrina nello splendore del suo regale palazzo. E qui, dopo aver detto queste ultime parole, entrò in agonia e lentamente si spense il giorno dopo, era il 24 maggio 1875. Ma devo anche dire che le sue figlie continuano, cari amici, questa meravigliosa avventura. Abbiamo visto come Madre Maria Leonarda viveva con lo sguardo rivolto all'Eucaristia, a Gesù crocifisso, e poi al Sacro Cuore. Sono, diciamo, l'Eucaristia, Gesù crocifisso e il Sacro Cuore erano i suoi amori, insieme alla Vergine Maria. E aveva anche una grande tenerezza per San Giuseppe, che aveva, diciamo, come patrono anche. E proprio sul suo esempio, anche la spiritualità, l'intensa vita di preghiera, quello che lei contraddistingueva la nostra venerabile, contraddistingue anche e scandisce le giornate delle sue figlie, anche oggi, all'interno dei loro conventi. E queste sono alla base di tutte le loro iniziative apostoliche, che nascono e si sviluppano in modo meraviglioso, esemplare, come segno vero della loro vita proprio di donne totalmente consacrate a Dio, donne votate all'amore e al bene della gioventù. Quindi continua questo bellissimo cammino. E la loro attività apostolica è ancora oggi l'insegnamento, la formazione delle ragazze, la catechesi degli oratori, la pastorale giovanile, anche l'accompagnamento vocazionale. E per questo organizzano anche attività didattiche per i bambini, incontri, percorsi formativi per ragazzi, esercizi spirituali, gruppi di preghiera per gruppi giovanili, ma lo fanno questi gruppi di preghiera anche per scuole di preghiera, anzi, anche per le famiglie, per gli adulti, unite tutte nella partecipazione anche alle missioni al popolo. A partire poi dal 2008 in particolare hanno fatto un grande dono a quella che è l'emergenza educativa del mondo femminile, dando vita al progetto, lo hanno chiamato Io Donna Secondo Dio, per dare cosa alle ragazze che vogliono l'opportunità di trovare risposte, quante ce ne sono oggi, al senso della loro vita. È un programma impegnativo per cercare proprio di illuminare la figura della donna, ma la figura della donna in tutta la sua ricchezza, in tutta la sua enorme bellezza. È proprio l'esempio e il cammino di questa grande apostola, di cui abbiamo, diciamo, visto la vita, anche se a brevi tratti, che ha illuminato la Chiesa per tanti anni. Questo esempio di Madre Maria Leonarda non è stato dimenticato, come si sarebbe potuto. Infatti, pensate, il 13 maggio, giorno meraviglioso, la Madonna di Fatima, del 1989, San Giovanni Paolo II la dichiarò venerabile, anzi la mise come modello di vita cristiana e maestro della gioventù. Il suo corpo, venerato da tantissimi fedeli che chiedono tante grazie, hanno tante risposte, riposa attualmente nella chiesa all'interno della Casa Madre a Diano Castello. Bene, cari amici, abbiamo concluso la vita di Madre